continuiamo il nostro cammino di conoscenza di Gesù. Oggi ci viene presentato come inserito completamente in una famiglia. E questo a noi sembra normale, ma di per sé a pensarci bene è tutt'altro che normale. Tant'è vero che nel mondo, quando si parla di grandi re, di grandi imperatori, di grandi personaggi, la loro crescita è avvolta un po' nel mistero, è avvolta nello straordinario. E Gesù cresce in una famiglia, come mai questo? Per insegnarci anche che la nostra vita deve svolgersi così. Noi guardiamo a Gesù, che è totalmente diverso da noi e dirà parole totalmente diverse da come il mondo parla. E quindi è un modello al di fuori della nostra portata, al di fuori della vita normale. Nello stesso tempo, però, è fatto di carne e sangue, ha un papà e una mamma un po' speciali, ma come noi, vive dentro una vita come noi, farà un lavoro come noi, avrà fame, avrà sete, si stancherà come noi. Oggi dunque proviamo a fissare lo sguardo su Gesù in questa famiglia. Nel nostro rito ambrosiano abbiamo una liturgia ricchissima. Io poi vi invito a portare a casa questo foglietto, d'altra parte l'avete toccato voi anche per la pandemia, resta vostro. Portate a casa, io vi suggerisco, ma stavolta vi invito proprio a farlo. Prendete, quando vorrete voi, anche fra un mese, anche fra due mesi, che non perderà valore. Prendete una birra, una matita e mettetevi a sottolineare. Ha di quelle parti straordinarie. Io ve ne evidenzio solamente qualcheduna. Per esempio, la prima orazione che ho detto prima. O Dio onnipotente, che hai mandato tra noi il tuo unico e dilettissimo Figlio a santificare i dolci affetti della famiglia umana. E quindi lui benedice e santifica l'amore familiare. E a donare con la sua immacolata condotta e con l'esempio e le virtù di Maria e di Giuseppe un modello sublime di vita familiare. E io qui non mi dilungo perché dovrei farvi una predica di un'ora, altrimenti. Io ho provato nella mia esistenza a soffermarmi e a immaginarmi come, fantasia, ma come avrebbe potuto essere la vita fra questi tre nella casetta di Nazareth. Provate a pensare cosa vuol dire che il più grande di tutti, Gesù, deve ubbidire agli altri due. E colui che comanda, Giuseppe, come tutti gli uomini di quel tempo, è il più piccolo di tutti e tre. E tutte e tre sono vergini. Sono casti. E far passare come hanno potuto vivere la volontà di Dio. Guardate, amici, noi dobbiamo imparare, se vogliamo, a meditare il Vangelo, a meditare la vita di Gesù. Altrimenti siamo sempre di corsa e confondiamo la preghiera con tante altre cose che non sono preghiera, sono richieste. Facciamo bene a chiedere al Signore, ma ci perdiamo il gusto di pensare come poteva essere la vita di questa sacra famiglia di Nazareth. E poi continua la prima orazione e dice: ci ha dato un modello sublime di vita familiare ascolta la preghiera della Chiesa, e qui dice delle parole che meriterebbero di essere pesate. Concedi ai coniugi le grazie della loro missione di sposi e di educatori, ai coniugi, e insegna ai figli l'obbedienza che nasce dall'amore. Mi fermo un istante su questo, cari amici, perché, ripeto, noi leggiamo la parola di Dio, noi ascoltiamo le orazioni che la sapienza della Chiesa ci mette davanti per imparare. Concedi ai coniugi le grazie della loro missione di sposi e di educatori. Noterete che prima mette sposi e poi mette educatori, e questo, se starete attenti durante le orazioni, lo ripeterà ancora in un'altra orazione. Prima sono sposi e poi sono educatori. Mi spiace dover constatare che in tantissime famiglie avviene l'opposto. Prima fanno i genitori e poi scoprono che sono sposi. E da qui derivano tantissimi errori. Provate a riflettere un po'. Quanta fatica io in 50 anni ho perso per dire agli sposi: cari sposi, prima dei figli viene il tuo coniuge. I miei figli sono i miei figli. Ma prima hai conosciuto i tuoi figli o tuo marito? Madonna Ambrogio, che scoperta! Prima ho conosciuto mio marito. E allora? E quando i tuoi figli se ne andranno, ti resterà il tuo vecchietto da coccolare, o no? Amici, prima bisogna crescere come coniugi. Coniugi vuol dire sotto lo stesso giogo, come due buoi che tirano il carretto insieme. Coniugi, sotto lo stesso giogo. Quante cose, amici, bisognerebbe, a partire da questo, riflettere. Quante crisi io ho visto nelle famiglie perché prima sono stati messi i figli, che non la moglie, che non il marito. Provate a riflettere se le difficoltà che nascono tra marito e moglie non sono dovute, oltre che al loro carattere, al vostro carattere, ai figli. La Chiesa mi insegna che prima viene l'essere sposi e poi educatori. Questo dal versante degli adulti, gli sposi, genitori. E sul versante dei ragazzi insegna ai figli l'obbedienza che nasce dall'amore. Questa parola che non esiste più, l'obbedienza. Io vi cito solo un caso, perché i casi e gli esempi veri parlano più di tanti ragionamenti. Sono fuori di un nido d'infanzia. Ero parroco e così saluto l'uno, saluta l'altra. C'è lì una donna che parla con una sua amica, una giovane donna, e vede e dice: signor parroco, guardi, guardi che io, preghi per me che io sono proprio sfortunata. Perché? Io ho un bambino di 2 anni, non riesco a farmi obbedire. Io calmo, la guardo e le dico: povero bambino. Come povero bambino? Povera me. No, povero bambino, che mamma ha? Che mamma ha che non è capace di farsi obbedire da un bambino di 2 anni? Come crescerà questo bambino? Comandando, travolgendo. Insegna ai figli l'obbedienza che nasce dall'amore. Cari amici, vi auguro di riflettere tanto su queste cose. Io devo correre via, volevo leggervi anche il prefazio, ma lo lascio a voi. È una perla questo prefazio, come tanti prefazi ambrosiani. Perché volevo rubarvi gli ultimi 3 minuti per darvi un insegnamento che viene dal Vangelo. Giuseppe e Maria vanno a Gerusalemme, presentano le loro offerte. Il ragazzo diventava adulto in quella cultura a 12 anni, non meravigliamoci, la vita finiva a 30 anni, 35 anni. E quando loro ritornano indietro, siccome si muovevano in grandi carovane per non incappare nei briganti, cioè, hai visto Gesù? Ma deve essere di lì, deve essere di lì, deve essere di là. Alla sera, quando ci si trova per mangiare, dov'è Gesù? Geminga, non c'è. Oh Signore, si è perso. Allora poi il giorno dopo tornano indietro, secondo giorno, terzo giorno lo trovano in Gerusalemme, ecco i tre giorni, e lo trovano dove? Nel Tempio. Dove sto ragazzino di 12 anni è lì con i grandi maestri della legge ebraica, della legge biblica, è lì a interrogarli e a rispondere alle loro domande. E Maria dice: finalmente ti abbiamo trovato, ma cosa ti è saltato in mente? Tuo padre e io non stavamo più nella pelle. E Gesù calmo risponde: ma perché mi cercavate? Non sapete che io al primo posto devo mettere il Padre mio che è nei cieli? Ma essi non capirono questo. Cari amici, che insegnamento ci dà questo? Ho un insegnamento grande che ve lo spiego con un altro esempio. Guardate, io tutti gli esempi che vi porto sono tutti esempi presi dalla vita. Non ho la mentalità da romanziere e da scrittore di fantasia. Una ragazza di 22-23 anni mi dice: Don, io vorrei fare la suora. Ah sì? Beh, sono contento, vediamo. Sì, io ho capito che l'unica realtà per cui vale la pena dare la vita è Dio. Solo che mia madre non è d'accordo. Non verrebbe a sostenere un po' la mia parte. Lei aveva perso il papà. Allora vado a casa sua. E la mamma mi dice: ecco, anche lei si mette contro di me. Eppure lei dovrebbe conoscere il quarto comandamento: onora il padre e la madre. Io sono vedova, ho solo questa mia figlia, è l'unico stipendio che mi arriva in casa. E lei vuole andare via, andare a far la suora, aiutare gli altri, e a me chi mi aiuterà? E io le ho detto esattamente questo episodio: signora, non lo sapevate che noi dobbiamo mettere al primo posto Dio? Ma è mia figlia, onora il padre e la madre. Non avrai altro Dio all'infuori di me. E concludevo con una frase che apparentemente suscita, e magari susciterà anche in voi della reazione, ma è una frase vera. Cari genitori, prima dei vostri figli e per loro, prima di voi genitori, c'è Dio. I figli sono vostri, ma dopo Dio.